signor venuto che c'è un mandato di una che ti vuole tanto bene. Mi disse matica tua appassionato, ma ti saccio contare a riso bene, che è come un raro barutaggiato, che della sulla rama si mantiene. Ario russo scummo già saneggia, ma viulo mio benato va travaglia, e giun travaglia no casa sottigge, come un ferro filata latinaggia.